Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Da che cosa incominciamo questa puntata? Cominciamo dalle tele di ragno senza ragni, cioè senza vale ragni. A dire quelle sintetiche. E poi parleremo di meccanobiologia, ovvero come guardare alle cellule come se fossero delle piccole macchinette. E poi celebriamo gli 800 anni della Magna Carta e ne approfittiamo per parlare di contenuti multimediali che ci aiutano ad approcciarci al patrimonio, al nostro patrimonio artistico-culturale. Nei musei, nelle mostre. Va bene, iniziamo. Dicevamo prima allora ragnatele, ma senza ragni. Sintetiche, per così dire, sono state realizzate presso il laboratorio di nanomeccanica bioispirata e del grafene all'Università di Trento ed è qui con noi il direttore di questo laboratorio, Nicola Pugno. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Benvenuto. Allora, intanto forse è il caso di definire che cosa sono queste tele sintetiche, di che cosa sono fatte, com'è possibile che voi riusciate a riprodurle in un laboratorio? La seta del ragno è composta da certe componenti di base fondamentali che possono essere trattati anche da un punto di vista artificiale, ma la cosa che non è assolutamente chiara è come sostanzialmente eseguire la ricetta di mettere insieme tutti questi componenti per ottenere poi una seta di una robustezza sufficiente, anche semplicemente per essere maneggiata con le mani. Qui ci sta dicendo anche qualcosa su come funzionano i ragni, perché è vero che noi probabilmente pensiamo che quello che esce dal ragnetto è quello che lui ha dentro, no? Che ha una specie di bavetta. Di bavetta e non fa altro che sputtacchiarla fuori, mentre invece non è così. No, beh, la realtà è, diciamo, è estremamente complicata, diciamo, per semplificarla, il ragno riesce a fare con questo spinning, con questa tessitura, no, per così dire, riesce a fare una cosa molto stravagante, perché partendo da un materiale che sostanzialmente è fluido, arriva un materiale solido, praticamente in maniera quasi istantanea, pensate che bello riuscissimo a farlo noi, no, a temperatura ambiente, noi queste cose qua le riusciamo a fare con l'acciaio, che ha bisogno dei processi che voi conoscete, ad alta temperatura per esempio, bene, questa si passa da un fluido, un materiale solido che ha una resistenza paragonabile a quella dell'acciaio, una tenacità ancora superiore. Questo grazie sostanzialmente a la capacità del ragno di utilizzare dei materiali di base, ma anche specialmente di renderli, diciamo, molto adesi l'uno all'altro, in maniera tale da realizzare un composito dalle caratteristiche superiori. Che lui assembla al momento, no? Che lui assembla al momento in una maniera efficacissima. E quindi noi in questo lavoro ci siamo, in maniera proprio specifica, ci siamo focalizzati su questo processo di spinning per capire che cosa capita durante la formazione della seta. Ecco, lo spinning è proprio il momento in cui il ragno tesse, diciamo. Esatto, per usare, esatto. Ecco, un linguaggio in italiano. Esattamente, esattamente. E abbiamo fatto quindi delle simulazioni numeriche abbastanza evolute, perché il processo è complesso, e abbiamo capito alcune cose. Quindi abbiamo capito per esempio che durante questo processo c'è un rimescolamento grazie a forze di taglio, per così dire, che vengono generate nel processo stesso, molto efficace, quindi rende questo materiale alla fine molto più resistente proprio grazie a questo rimescolamento. All'inizio il materiale è omogeneo, mentre alla fine diventa eterogeneo. Questa eterogeneità sostanzialmente aumenta la connettività, per così dire, di queste fasi di durante questo processo, diciamo, di tessitura, e il risultato è che c'è molta più interconnessione tra le varie fasi e la seta finale è robusta effettivamente come noi la osserviamo sperimentalmente. Allora, è davvero complesso, e immaginiamo che appunto il vostro lavoro sia stato davvero complesso, tanto che appunto avete guadagnato la pubblicazione del lavoro su Nature Communication. Però la cosa che volevamo anche capire è, vabbè, allora il ragno lo fa con estrema naturalità. Riprodurre in laboratorio è complicatissimo. Una volta che voi lo avete riprodotto, avete anche la possibilità in qualche modo di misurare quanto davvero sia forte e che tipo di materiale viene fuori, molto performante? Beh, questa è una domanda che mi fa particolarmente piacere perché posso citare l'European Research Council, di cui abbiamo ricevuto, diciamo, 3 grant ad oggi, il primo dei quali ci ha permesso di acquistare un cosiddetto nanotensile testing machine, scusate ancora l'inglesismo, comunque una macchina che fa prove di trazione di fibre molto piccole anche di sete di ragno. Quindi voi, se volete caratterizzare per esempio la resistenza di un cavo di una funivia, voi ne prendete un pezzo, lo afferrate a destra e a sinistra e lo tirate, diciamo, con una macchina particolare, no? Che queste sono queste macchine che fanno prove di trazione. Da questa prova di trazione, vedendo come il materiale sotto un certo carico si allunga e poi si rompe alla fine, voi ricavate sostanzialmente la caratteristica del materiale. Quindi grazie a questo strumento siete riusciti a testarla. Noi abbiamo esattamente questa cosa, ma che fa prove di fili di seta di ragno, quindi alla microscala. E cosa è venuto fuori? Che in effetti è ultra resistente. È venuto fuori che è un materiale con una resistenza che incomincia ad avvicinarsi alla resistenza della seta del ragno con questa procedura. Il vantaggio qua è che chiaramente se si fa una cosa sintetica si bypassano le problematiche di scala, no, che ci sono se noi volessimo estrarre seta da ragni per realizzare, diciamo, oggetti macroscopici. I ragni non sono i bachi, è molto più difficile allevarli, è molto più difficile estrarre la seta, ma siamo interessati alla seta dei ragni perché la seta è più resistente. È quella che è resistente. Certo. Ecco, ma adesso abbiamo tolto di mezzo il ragno, ma cosa c'è? Ci sarà un apparecchetto che produce proprio il filo? L'idea è di andare verso una produzione di scala di seta artificiale, quindi ci sarà un apparecchietto quanto è grande, insomma, questo poi sarà da verificare. È da vedere ancora, però è questo. E una volta ottenuta questa seta artificiale, che usiamo? Ci fate? Già la seta naturale ha delle applicazioni notevolissime, perché sono molteplici, per esempio come scaffold nella medicina rigenerativa, quindi hanno anche applicazioni mediche. La più banale, forse la più semplice, più che banale, è per esempio per suture, per suturare. Sono materiali biocompatibili, il ragno se la mangia la seta. Sì, quindi, sono, diciamo, assolutamente biologiche, quindi... Assolutamente biocompatibili, no, riutilizzabili, riciclabili, temperatura ambiente. È il sogno degli ingegneri questa cosa qua, dei scienziati dei materiali. Comunque le applicazioni sono essenzialmente biomediche oppure no, anche industriali, per esempio? Quando voi avete... Molte delle cose che voi vedete adesso sono limitate dalla resistenza dei materiali, sto parlando di high tech ovviamente, no? Quando voi, non so, volete fare un rotore per accumulare energia, quindi un disco che ruota, questo disco ha una velocità angolare, quindi capacità di accumulare energia che è limitata dal fatto che a un certo punto il rotore si spezza, il materiale si spezza. Se voi lo fate con fibre più resistenti, per esempio, potete ottenere una velocità angolare maggiore, quindi un accumulo di energia migliore. O se voi volete fare dei materiali, dei cavi, perché domani ci piace sospendere il ponte di Messina su dei cavi fatti di seta di ragno artificiale, questa è molto futuristica, l'ho buttata lì così anche come provocazione, ma è una cosa che ci si può pensare. Tecnicamente si può fare. Oggi la facciamo con dei cavi, la vorremmo fare con dei cavi d'acciaio che hanno una resistenza di 1 gigapascal, la seta del ragno ha una resistenza di 1 gigapascal, anche può arrivare a fino a 4 gigapascal, quindi può essere anche più resistente, molto più leggera. Ma lì significa che si mettono insieme tanti fili, no? E si ottiene un cavo con una sezione più che sufficiente per tenersi un ponte. Voi state già lavorando, cioè, insomma, la ricerca ovviamente procede, avete messo a punto questo buon risultato sulla seta appunto sintetica, state anche lavorando con i ragni. Stiamo anche, diciamo, un po' lavorando sui ragni, il sogno di cui abbiamo già in realtà realizzato una prova di concetto è quello di ottenere delle sete che sono più robuste di quelle naturali. Dovete entrare in collaborazione con i ragni per questo lavoro che arriverà. In un certo senso sì. In un certo senso sì. Va bene, allora quindi ci risentiremo. Grazie, buon lavoro Pugno. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Manuela Raimondi, buonasera. Buonasera a lei. Lei è una meccanobiologa. Sì, la meccanobiologia è una scienza nuova, nata negli ultimi 20 anni, perciò possiamo in effetti cominciare a chiamare così le persone che se ne occupano. Che la fanno. Detta così sembrerebbe che uno c'ha un po' di cellule rotte, viene da lei, gliele ripara, magari fa anche dei buoni prezzi. In effetti non è molto lontano dalla realtà. No, va bene. Allora entriamo nel merito. Lei coordina questo laboratorio di meccanobiologia del Politecnico di Milano e sta facendo una ricerca strana, molto bella, molto affascinante. Non ha bisogno di fare buoni prezzi perché ha anche ricevuto un finanziamento consistente. Vediamo come riesco a introdurla. Io direi che siamo circondati da macchine, da milioni di macchine, quindi meccanica e macchine ci viene facile, però anche quando parliamo del corpo umano, beh, insomma, tendiamo a dire una macchina perfetta, oppure se pensiamo alle articolazioni, se pensiamo al ginocchio, anche se qualcuno dice che dovrebbe essere stato progettato meglio, ma comunque ci viene l'idea della macchina e forse anche per qualche grande organo come il cuore, così. Però l'idea che le cellule piccole, molli, fragili siano anche loro delle macchine, questa ce l'abbiamo meno in testa, mentre invece nel suo lavoro lei le guarda proprio così. Sì, io proprio studio questo, studio la meccanica del comportamento delle cellule. E com'è? In effetti ogni cellula ha un suo scheletrino, lo chiamiamo citoscheletro, e quindi ha tutte delle proteine di cui è costituita che le danno che consentono di mantenere una forma. Se fosse solo acqua, ad esempio, si spalmerebbe in una maniera diversa. Invece le cellule hanno una loro forma, può essere rotonda, può essere magari un po' più oblunga. Poi questo scheletro consente alle cellule di attaccarsi al mondo circostante. Già, per esempio alla matrice extracellulare, alla matrice quindi che costituisce tutti i nostri tessuti, dopo essersi agganciate con dei veri e propri uncini di tipo chimico, la cellula esercita un'attrazione, quindi lei non solo si attacca con questi uncini, riesce anche a tirare verso di sé il mondo esterno. Come se avesse un po' di muscoli, insomma. Esattamente, esattamente. Questo fa la cellula. Ma questi aspetti meccanici sono, credo, mi dica lei, importanti per vedere il suo comportamento, ma sono anche importanti per quella che è la vita della cellula, cioè c'è una meccanica che influisce anche sulla sua biochimica, che influisce su quelle cose che può fare, no? Tra l'altro lei lavora molto sulle cellule staminali, quelle cellule che possono diventare tutte le altre, no? Di tutti gli altri organi. Esatto, noi abbiamo nel corpo adulto delle cellule per cui non è stato ancora definito che tipo di tessuto diventeranno e sono le nostre cellule di scorta, per cui se serve costruire un pezzettino di muscolo, loro si muovono, vanno verso il muscolo e diventano una cellula del muscolo. Se serve ricostruire un pezzettino di osso perché c'è stata una lesione oppure un normale rinnovamento del tessuto, loro si muovono, migrano verso l'osso e si trasformano in cellule dell'osso. Ecco, cellule che sono in grado di fare questo tipo di trasformazione sono dette staminali. Ecco. E perché la meccanica è importante in questo tipo di loro attività? Allora, cominciamo a dire che la meccanica è importante per metà, cioè per metà, come diceva lei giustamente, l'aspetto, la biochimica che regola tutti i comportamenti della cellula, ci sono sicuramente segnali chimici, un ambiente complicato intorno alla cellula che determina il suo comportamento, però per metà, come dicevo prima, siccome la cellula è in grado di sentire, ha proprio dei sensori della durezza, ad esempio delle proprietà meccaniche del mondo che la circonda, essendo in grado di sentire questa interazione meccanica, questo è un segnale altrettanto importante come quelli chimici, è questo che è stato scoperto recentemente, cioè pesa allo stesso modo nella decisione della cellula di trasformarsi ad esempio in una cellula dell'osso piuttosto che in una cellula di un tessuto più morbido. Se la cellula migrando verso il tessuto sente una durezza ad esempio dell'osso, che è un materiale, è un tessuto mineralizzato e quindi ha elevata durezza, questo segnale è sufficiente per metà, diciamo, a prendere questa decisione, si chiama decisione differenziativa, verso il tessuto osseo. Ecco, ma allora Raimondi, siccome riuscire a far fare alle cellule qualcosa, lo sappiamo, può avere un'enorme importanza dal punto di vista terapeutico, per esempio, il suo approccio, il vostro approccio di meccanobiologi al mondo delle cellule va anche in questa direzione, cioè possiamo pensare che possa essere un approccio magari vincente rispetto ad altri per riuscire a trovare nuove terapie? Sì, noi è quello che stiamo cercando di fare. Noi cerchiamo di capire che cosa succede nella condizione naturale in cui si trovano le cellule, tipicamente le cellule staminali nel nostro organismo, e cerchiamo fuori dal corpo umano di trovare dei metodi e delle tecniche innovative per imitare quello che succede nell'organismo in modo da essere noi fuori dall'organismo a controllare il destino di queste cellule. Cioè, se noi vogliamo che restino staminali, cerchiamo di farle rimanere staminali. Se noi vogliamo che differenzino verso delle cellule di determinati tessuti, perché ci servono differenziate in modo da poterle utilizzare per riparare questi tessuti in pazienti che abbiano delle patologie, allora vogliamo riuscire a controllare questo tipo di differenziazione. Allora, io adesso invece svelo che sono stato da lei e ho fatto un video e abbiamo visto delle cose assolutamente meravigliose. Siete riusciti a costruire, siamo nel mondo nano, delle scatolette, delle trappoline in cui vengono messe le cellule, lo si vede benissimo nei video, e quindi andate al nostro blog, al blog di Mebius, perché qui non bastano più le parole, ci vogliono le immagini. E voi, avendo costruito questi piccoli cubi, no? artificiali, lì dentro riuscite a far fare, appunto, perché le cellule riconoscono questi involucri. Sì, esatto, questo diciamo è l'argomento su cui siamo stati finanziati come gruppo di ricerca, perché è un'idea abbastanza innovativa e di frontiera. Cioè, l'idea che abbiamo avuto è stata quella di appunto, fuori dal corpo umano, quindi in una condizione assolutamente artificiale in vitro, produrre una specifica condizione che sentono le cellule staminali nell'organismo, che è quella di appartenenza e localizzazione dentro in un ambiente molto protetto in cui vivono nel nostro corpo, in tutti i tessuti peraltro, che si chiama nicchia staminale. È proprio definita così. Allora, in questi piccoli microambienti sono sparpagliati per tutti i nostri tessuti, le cellule staminali restano aggregate una con l'altra in un ambiente molto protetto. Allora, noi abbiamo ricostruito fuori dal corpo umano dei microambienti che assomigliassero dal punto di vista meccanico, proprio architettonico. Infatti, sì, quello che lei ha visto sono queste specie di grigliette, esatto. Sono dei cubettini con dentro delle griglie, e sono stati pensati in modo che le cellule possano migrarci dentro, cioè proprio entrare muovendosi con quel meccanismo che spiegavo all'inizio, e organizzarsi aderendo in una maniera molto spaziale, quindi non spalmata su un piano di coltura come si faceva prima, ma invece proprio molto tridimensionale, in modo che possano riconoscerlo come un ambiente in cui siano favorite a mantenere la staminalità. Questo è davvero sorprendente, andate a vedere il video. Manuela Raimondi, grazie e auguri per questo bellissimo lavoro. Grazie molte a lei, arrivederci. Concludiamo con la Magna Carta. Sono 800 anni dalla compilazione della Magna Carta. Sì, proprio questa settimana. Questa settimana. Documento creato in Inghilterra appunto circa 800 anni fa, può essere considerato simbolicamente, come... dai, viene considerato un po' così, come è il prima primo carta in cui il diritto... potere, come dire, avviene a buone ragioni, e si cerca di stabilire dei limiti che questo potere può avere. Dei diritti anche della persona, del cittadino. Oddio, non è l'avvento della democrazia, però è un primo seme importante. Potrà sembrare strano, ma parliamo della Magna Carta con un'azienda che si occupa di multimedia. Andiamo a Genova, alla ETT, e abbiamo qui ospiti Ugo Galassi. Buonasera Galassi. Buonasera. E Matteo Ventrella. Buonasera. Arriviamo da voi perché in Inghilterra avete lavorato a un exhibit, a una mostra sulla Magna Carta, e avete curato tutto e anche gli aspetti multimediali. Beh, insomma, in questo ci fa piacere, perché è un'azienda italiana che si piazza in Inghilterra, però la ETT ha anche una sede a Londra, no? Esatto. Per quanto riguarda il progetto della Magna Carta, ETT ha realizzato una mostra itinerante, un exhibit itinerante, e ne ha curato tutti gli aspetti, sia dalla progettazione della grafica che dell'allestimento proprio fisico, quindi proprio tutte le attrezzature, e poi fino ad arrivare addirittura a azioni di comunicazione e merchandising, per cui diciamo pacchetto completo. Grazie, so che è difficile per radio, non abbiamo le immagini purtroppo, sì. Però ci fa capire un pochino come era fatto, che cosa avevate proposto? Allora, noi abbiamo proposto un exhibit composto da tavoli interattivi e postazioni touch, quindi tutti strumenti multimediali che vengono utilizzati ormai abbastanza di frequente per mostre, per valorizzare i beni culturali, e in più tutta una serie di applicazioni tramite tablet per cui le persone possono andare a scoprire la Magna Carta, possono lasciare dei propri feedback e possono utilizzare la Magna Carta utilizzando anche dei game multiplayer, per cui è possibile andare a lasciare delle proprie impressioni e in qualche modo andare a scrivere quella che potrebbe essere la Magna Carta dei giorni d'oggi. Ognuno potrebbe compilarsi la propria, diciamo così. In qualche modo sì, e anche, come dire, condividerla in un'ottica poi di storytelling partecipativo, per cui okay. Sono le persone stesse, i visitatori stessi di questa mostra, di questo exhibit, che possono in qualche modo lasciare il segno e lasciare un ricordo e degli spunti di riflessione. Anche con i caratteri, no, della Magna Carta originale, gli avete dato questa possibilità, se la scrivono come allora. Sì, esattamente. Sì, come se fosse a mano. In più, oltre a questa parte, diciamo, multimediale, c'è una parte un pochettino più tradizionale, compresa anche una teca che custodisce una copia, una delle copie, diciamo, della Magna Carta, perché poi negli anni ne sono scritte differenti copie. Quella che utilizziamo noi, insomma, quella che è presente nel nostro exhibit, è una copia del 1300, quindi non è quella originale, ma è una delle tante, più o meno sono intorno a una ventina di copie che sono attualmente diffuse in tutto il mondo, non soltanto in Inghilterra. Sì, certo. Veniamo invece a lei, Ventrella, perché volevamo prendere spunto da questo evento, nel quale si può utilizzare un contenuto così forte e anche così suggestivo per fare un lavoro di divulgazione e di formazione. A che punto siamo oggi rispetto all'uso della multimedialità in queste attività di comunicazione, soprattutto per esempio anche di comunicazione scientifica? Perché noi sappiamo che si partì con il famoso esperimento della Villette, centro scientifico museale di Parigi, ormai credo una trentina d'anni fa, lì si rese tutto multimediale, poi mano a mano col tempo ci si è accorti che bisogna stare un po' attenti a non eccedere nell'uso del multimedia, no? Come siamo messi oggi? Certo, chiaramente l'uso del multimediale può essere anche abusato, e il problema è che poi soprattutto il multimediale ha una forte obsolescenza, quindi se si rischia di aspettare tutto l'effetto wow comunque dal multimediale, quindi puntare solamente sull'effetto wow del multimediale, si rischia poi dopo un paio di anni di trovarsi, tra virgolette, un po' con un pugno di mosche. Quindi quello cioè che noi invecchiano abbiamo subito in qualche modo questi exhibit, perché la tecnologia avanza e loro rimangono un po' indietro. Certo, assolutamente. Allora, quello che infatti noi siamo andati a studiare poi nel corso degli anni e dell'esperienza è di riuscire a capire quello che il multimedia effettivamente può dare di più. Quindi, come diciamo sempre, non c'è poi la tecnologia definitiva per ogni cosa, ma ogni contenuto può avere la sua tecnologia, quindi capire, studiare il contenuto dal principio e capire su quale multimedia può essere realizzato al meglio. Quindi faccio un esempio, se dovessi avere delle didascalie, appunto un multimedia, quindi uno schermo touch, potrebbe aiutarmi, perché in uno stesso spazio io potrei avere per esempio la traduzione simultanea in 15-20 lingue, e quindi chiaramente questo è un utilizzo pratico e utile del multimedia che va a sopperire invece tutti i limiti che può avere una stampa o un cartaceo. Altri limiti sono per esempio i vari filmati, capire, diciamo, di non proporre un filmato troppo lungo, quindi fermarsi comunque su degli spunti, delle frasi veloci. Ecco, per esempio, lei ha toccato questo problema del tempo, il multimedia che dura anche 10-15 minuti e il multimedia invece che può essere breve. Qui certo. So che ci sono delle riflessioni, no? Assolutamente, infatti da nostra esperienza delle proiezioni comunque multimediali che devono comunque dare un qualcosa a uno spettatore che comunque sta camminando, quindi è in un flusso, è in piedi, quindi non può star fermo più di tanto, abbiamo visto che più di due minuti e mezzo chiaramente si ha un calo comunque dell'attenzione, quindi devono essere frasi abbastanza veloci, rapidi. E quindi cambiare un attimino gli aspetti dando informazioni, riassuntive, veloci, con poi magari dare la possibilità di effettuare degli approfondimenti solo se richiesti. E poi questo tipo di strumenti avvicinano molto, abbiamo l'impressione, anche noi parlandone qui a Mebius, avvicinano molto i ragazzi, appunto, che utilizzano spesso questo tipo di supporti, di device, e quindi vengono avvicinati a patrimoni culturali e artistici che altrimenti magari ignorerebbero. Però d'altro canto c'è il rovescio della medaglia, magari quelli un po' più attempati hanno difficoltà a fruire materiali tecnologicamente più avanzati. Assolutamente, infatti abbiamo notato come appunto vengono detti i vari nativi digitali ormai si avvicinano a uno schermo nativamente, naturalmente, come se fosse un touch, lo usano come, diciamo, un utente invece più attempato sfoglierebbe un libro. Per questo infatti usiamo altri tipi di engage che possono essere per esempio dei sensori di prossimità o sensori di qualsiasi tipo che si attivano anche quando l'utente non va a ricercarli volutamente, quindi questo effettivamente può essere di aiuto per un pubblico che invece non ha la voglia, diciamo, la volontà di andare a capire come funziona un exhibit tecnologicamente magari un po' più evoluto, ecco. Però quello che mi risulta è che in alcune proprio attività formative, spiegazione per esempio di concetti scientifici, bisogna riuscire ad avere il multimedia che mi dà alcuni elementi di scenario, però bisogna poi toccare con le mani, bisogna smanettare, bisogna mettere, no, le dita su circuiti, e lì ci vuole la realtà concreta. Assolutamente, infatti quello che noi cerchiamo sempre di realizzare è non avere, dove possibile chiaramente, un multimediale puro, ma avere un engage appunto un po' diverso, un po' come un gioco. Per esempio, in un articolo delle realizzazioni che abbiamo fatto, che abbiamo anche presentato come articolo scientifico, è appunto questo, l'idea dello scavaimpare, lo chiamiamo, quindi è una tecnologia, diciamo un exhibit da noi pensato e realizzato, che permette di avvicinare, diciamo, al mondo dell'archeologo i ragazzi. Quindi cosa consiste? In, diciamo, una sorta di vasca piena di sughero, dove da prima diciamo, il ragazzo scava e quindi trova un mock-up di un reperto. Quindi questo è un reperto, diciamo, rifatto, però effettivamente ha le stesse dimensioni, peso e forma. Del tutto analogo. Assolutamente, del tutto analogo, potenziato, diciamo, tra virgolette, da diciamo, un tag NFC, quindi un tag, diciamo, di prossimità, e quindi avvicinando questo questo reperto a un totem dove è presente un touch, compare una serie di quiz, quindi non viene data una didascalia, quindi un apprendimento, diciamo, passivo, ma viene fatto ragionare il ragazzo su cosa effettivamente potrebbe essere quello che ha in mano, quindi se appunto è un reperto, è un osso, un manufatto, a cosa serve, dove veniva usato. E quindi questo abbiamo visto che effettivamente stimola un apprendimento più attivo, più concreto, ed è anche abbastanza comprensibile. Ugo Galassi e Matteo Ventrella, grazie e buon lavoro per altri exhibit. Grazie a voi, buona serata. Abbiamo solo una manciata di secondi per salutarvi tutti. Per salutare e rinnovare il nostro appuntamento settimanale a settimana prossima. Quindi buona settimana a tutti. Qui fra 7 giorni, arrivederci.